421. Pasticcio di carciofi e piselli. È un pasticcio strano, ma potrebbe piacere a molti e perciò lo descrivo. Carciofi numero 12, piselli sgranati grammi 150, burro grammi 50, parmigiano grattato grammi 50, sugo di carne quanto basta. Mondate i carciofi da tutte le foglie dure, non mangiabili. Divideteli in due parti e levate loro il pelo del centro se l'hanno. Date ad essi e dai piselli mezza cottura di pochi minuti nell'acqua salata. Gettateli dopo nell'acqua fresca, levateli, asciugateli bene e di carciofi divideteli ancora in due parti. Tanto essi che i piselli metteteli al fuoco con grammi 40 del detto burro. Conditeli con sale e pepe e tirateli col sugo di carne a giusta cottura. Coi restanti grammi 10 di burro, una cucchiaiata di farina e sugo suddetto, fate una specie di balsamella per legare il composto, il quale, messo in un vassoio che regga il fuoco, lo condirete a strati con questa e con parmigiano. Ora, copritelo con la pasta frolla sottosegnata, doratela col rosso d'uovo, cuocete il pasticcio nel forno da campagna e servitelo caldo perché perde molto lasciandolo ghiacciare. Questa quantità può bastare a 7 o 8 persone. Pasta frolla, farina grammi 230, zucchero a velo grammi 85, burro grammi 70, lardo grammi 30, uova numero 1.